You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti negli anni 60, dove le coppie miste erano una novità, per alcuni anche un problema, dove in America si discuteva di integrazione razziale. In Italia il problema ancora non esisteva. Il film degli anni 60, Indovina che viene a cena, è la nostra scusa ufficiale per parlare ogni settimana di pregiudizi razziali, integrazione fra culture, ovviamente anche di cucina, ricette e contaminazioni che nella vita vanno sempre bene, perché i gusti insomma cambiano. Parliamo di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani, magari nati all'estero ma da decenni in Italia, magari nati in Italia da genitori stranieri. Indovinate chi viene a cena oggi a Radio 24. Io do il benvenuto a Sheikh Tidiane Gaye, scrittore italo-senegalese. Buonasera. Buonasera a lei. Ho pronunciato bene il suo nome? Giustamente, sì, si pronuncia così, Sheikh Tidiane Gaye. Dovremmo iniziare a conoscerlo bene questo nome, perché è uno scrittore che ha appena pubblicato proprio poche settimane fa un libro. Prendi quello che vuoi, ma lasciami la mia pelle nera. Ecco, appunto, già un programma, no, questo titolo. E poi andremo a parlare appunto di questa pelle nera e del fatto che lei vive in Italia, dove è arrivato dal Senegal ormai una quindicina d'anni fa. E prima ha fatto il giornalista, giusto, in Costa d'Avorio? Anche in Senegal sono stato corrispondente a Milano per una settimanale senegalese del nome Le Temo, per 3 anni, ma ho voluto entrare nel mondo della finanza, poi mi sono fatto una carriera come analista del credito e come consulente finanziario. Ha lavorato per alcune banche qui in Italia, ha una moglie italiana e 3 bambini, è così? Sì. Ed ha appena pubblicato questo libro dal titolo, come dicevamo, che è già un manifesto, uno scrittore di prosa e poesia, e qui in veste anche di cuoco. Cosa ci cucina oggi? Ho un'idea di fare il Tchebujem, che è il piatto senegalese, un piatto secolare, un piatto molto molto buono, ma che viene cucinato da noi per i nostri ospiti più importanti. Chebu vuol dire riso, chep, e jem vuol dire pesce, quindi riso al pesce. Il chebu jem ha una particolarità, perché spesso quando la famiglia ha un ospite particolare viene cucinato per fargli piacere. Ecco. E poi ci sono altri ingredienti che bisogna aggiungere, come cipolle, poi l'olio passato di pomodoro, spicchi d'aglio e prezzemolo, sale, peperoncino piccantissimo, ha un sapore particolare, perché effettivamente non è come la cucina italiana quando uno mangia ad esempio le lasagne, perché è un piatto unico, quindi non c'è primo, secondo, te, perché la verdura e il riso, il pesce è tutto mischiato insieme, è molto buono come piatto. Lei lo cucina anche adesso a casa con sua moglie e bambini? A casa mi occupo della cucina africana, mia moglie cucina l'occidentale, quindi al mese almeno una volta o due mangiamo senegalese e tutto il resto del tempo ovviamente mangiamo italiano. Ai suoi figli piace la cucina senegalese? Sì, mangiano soprattutto, a loro piacciono molto lo yassa, che sarà la seconda ricetta. Poi. Che è composto di cosa? Allora, di riso sempre, un riso con pollo, un riso con carne, un riso con pesce e poi a base praticamente di cipolle, perché lì bisogna mettere tanto senape, poi bisogna mettere tante cipolle. È un piatto molto molto saporito ed è molto buono. Il riso, invece di mescolarlo con il pollo, il riso viene fatto a parte ed è un riso bianco. Si prepara la salsa dall'altra parte, salsa di cipolle, di olive, e poi si fa la carne o il pollo o anche il pesce. Sono piatti che le ricordano qualcosa del suo paese in particolare? Sono i piatti della sua infanzia? Sì, quando mia mamma si alzò la mattina per andare al mercato per fare la spesa, sappiamo che oggi dobbiamo mangiare yassa o cevujen, c'è una luce veramente che illumina proprio tutta la casa, perché sono piatti buonissimi e non sono sempre che vengono cucinati, e quindi effettivamente c'è una gioia in più all'interno della famiglia, della casa, perché oggi si mangia cevujen, oggi si mangia yassa. Ho letto che sua madre vive in Senegal e le fa notare che insomma la sua uso della lingua locale, che si chiama Wolof, giusto? Wolof, io, mio papà è Wolof, mia mamma è Tukulur, quindi io vengo anch'io da una coppia mista, però non parlo la lingua di mia mamma, ma parlo Wolof, perché in Senegal tutti i senegalesi parlano Wolof, anche se le etnie sono diverse, perché diventa la lingua nazionale del paese, non ufficiale, perché la lingua ufficiale è il francese, quindi noi per forza parliamo tutti francesi. Ma è vero lei parla di recente, non parla più bene il Wolof, ma insomma una mescolanza tra Wolof e italiano? È italiano, ormai è così. Mi è capitato andare in Senegal insieme a mia moglie, poi parlando con mia mamma dicevo: ma Sheikh, non mi parli più bene il Wolof? Ho detto: ma è normale, ormai cerco di farmi capire e faccio una mescolanza tra parole anche italiano che butto dentro, e questa è la dimostrazione che una lingua anche importante come la lingua italiana sta prendendo una parte anche della mia identità. Mom sa bop moné kat kat karam kat kat kat kat karam kat gisay mbok moné wolé ke do sur war nga kërëm ñi tuggu ci wañé wañu watam na no luni wangé na bé war ngeena bekki independence bi ak ni ko ndi kat kat karanta. E quindi questa è la musica che lei ha scelto per la nostra trasmissione. L'avevo chiesto appunto di indicarci delle canzoni. Perché questa canzone? È una canzone molto bella, cantata ovviamente dal re del Mbalax del Senegal, perché è chiamato così, si chiama Youssou N'Dour, uno che ha portato il nome del Senegal ovunque nel mondo, culturalmente si fa rispettare anche perché comunque è partito dal Mbalax, che è la nostra tipologia musicale che ha portato ovunque nel mondo. E quattro, perché la canzone si chiama Kat Kat Karam Kat, e vuol dire 4, 4, 44. 4 vuol dire 4 di aprile e 44 anni con l'anno che ha cantato la canzone. Senegal ha avuto la sua autonomia per diventare una repubblica il 4-4-1960. E quindi nel 2000 ha fatto la canzone, per 44 abbiamo avuto la nostra indipendenza. E dice è chiaro. Che quindi è per l'indipendenza del Senegal. Del Senegal, che quando abbiamo avuto la nostra dignità repubblicana, ecco, e quindi è una canzone che noi qualche senegalese che ascolti, a mio parere, questa canzone, ricordo che abbiamo avuto la nostra indipendenza dai francesi per avere autonomia economica, culturale e politica per poter lavorare e gestire proprio il nostro paese. Come è cambiato il Senegal in questi 15 anni? Lei diceva è tornato spesso. Sì, torno quasi ogni anno, ogni 2-3 anni, vado a salutare la famiglia che sta lì e vedo anche l'associazione. Il Senegal sta migliorando, non dimentichiamo che il Senegal è uno dei rari paesi africani comunque senza colpo di Stato, un paese molto aperto, disponibile, un paese dove non c'è l'integralismo musulmano, un paese accogliente, perché Sunugal vuol dire la nostra barca, è Senegal, e quindi è un paese che politicamente, democraticamente è stato sempre un paese modello in Africa, che ha insegnato tanto a tanti paesi africani. E noi, esempio, quando dopo 40 anni siamo stati governati dal Partito Socialista, che abbiamo voluto cambiare, non abbiamo preso fucili per fare la guerra, ma abbiamo cambiato il regime tramite la voce dei cittadini, del popolo. Nel 2000 c'è stato un governo liberale e nel 2012, dopo 12 anni, l'abbiamo cambiato, sempre con un nuovo presidente di 51 anni eletto da tutti i senegalesi. Quindi abbiamo questa maturità di poter cambiare senza usare le armi, come succedono purtroppo in tanti paesi africani. In Italia c'è molta tensione in questi giorni per quello che accadrà per il conclave, per l'elezione del nuovo Papa. E si parla anche dell'ipotesi di un Papa nero. Come vedrebbe questa elezione di un Papa che viene dal suo continente? Una cosa dovuta, ricordiamo che l'Africa è stata colonizzata e quando si parla di colonizzazione c'era anche la presenza della Chiesa, quindi le nostre tradizioni animistiche sono state cancellate, sepolte, e al posto delle nostre credenze sono state costruite delle chiese. Oggi, se una percentuale importantissima della popolazione africana è diventata cristiana, vedo che penso che sia anche giusto, normale, che il Papa diventi anche un africano. Quindi non è, a mio parere, il colore della pelle che bisogna valutare, ma le conoscenze. Ci sono africani all'altezza che possano diventare Papa, perché no? Vogliamo una Papa aperto come il Papa polacco, uno che veramente abbraccia tutte le culture, tutte le religioni, una Papa di amore e non un Papa chiuso. Quindi noi anche musulmani preghiamo per un conclave veramente positivo per tutta l'umanità, perché sappiamo comunque che il Vaticano conta a livello internazionale, quindi auguriamo veramente che il Papa diventi un Papa per tutti, per tutte le religioni. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant. Questa voce che sentiamo in sottofondo l'ha riconosciuta? È la voce di Mandela. Ah, di Mandela, benissimo. Sì, benissimo. Sì, la voce di Mandela, un grande africano, un grande leader, al quale lei dedica il libro. Giustamente, ho dedicato il libro a Nelson Mandela per il suo lavoro, per la lotta che ha fatto per i diritti e contro la discriminazione razziale. Ma nello stesso tempo ho dedicato anche il libro a Joseph Ndiaye, che è conosciuto molto ovunque nel mondo, che è morto, che è stato veramente il guardiano della casa degli schiavi a Dakar. Ho dedicato anche il libro a tutti gli zingari, a tutti i rom, a tutti gli immigrati che purtroppo sono emarginati ovunque nel mondo e anche in Italia. C'è discriminazione e razzismo verso di loro? È un argomento molto sensibile, particolare. Io sono senegalese, di carnagione sono nero come Balotelli. Ovviamente l'aspetto della cittadinanza, che oggi mi rivolgo, approfitto questa intervista, questa partecipazione a questa proprio radiofonica per lanciare il messaggio anche a chi ci governerà di iniziare a cambiare il linguaggio. E il linguaggio, perché dico linguaggio? Perché tutto parte da lì. Ci sono dei cittadini che non sono autoctoni, quindi sono cittadini di provenienza straniera che sono diventati italiani, che amano questo paese, questa terra, bisogna iniziare a cambiare il linguaggio. Il mondo di domani è un mondo che appartiene alla mescolanza delle razze, alla fratellanza, perché siamo tutti esseri umani. È l'essere umano che ha creato le barriere, il muro, e questo noi lo dobbiamo abbattere. Per abbattere questo è la politica che deve fare uno sforzo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Non ho i tuoi soldi nei tuoi gioielli, nel Porsche Carrera, nelle tue amanti, ma vivo come Super Mario Ballotelli, ogni serata è buona per andare al bar. Non ho i tuoi soldi nei tuoi gioielli, nel Porsche Carrera, nelle tue amanti, ma vivo come Super Mario Ballotelli, ogni serata è buona per andare al bar. Stanotte a quel party so che ci vanno tutti quanti, mi sa che li raggiungo anche se ho pochi contanti. Io di problemi no, che non me ne sono mai fatti, li scarterò con classe come fa un centravanti. Davvero di problemi non me ne sono mai fatti, nella mia rubrica ho sempre avuto giusti contatti, da quello di Mancini a Betti a quello di Moratti, e occhio quello di Silvio, io non avrò più sbatti. Faccio uno squillo ed entro nel locale col tappeto rosso, quando entro nel privé mi siedo al tavolo più grosso. Volevo una bottiglia e cinque ne sono arrivate, tu hai chiesto una bottiglia e ti hanno presa bottiglia. Siamo con Sheikh Tidiane Gaye, scrittore italo-senegalese che ha appena pubblicato un romanzo. Questo è un rap, Super Mario si intitola questa canzone, del rapper sardo-milanese Vaca, che ha dedicato al campione rossonero e che potete ascoltare in anteprima in questi giorni sul sito del Corriere. Il pezzo sarà disponibile su iTunes dal 22 di febbraio. Questa è una canzone particolare dedicata a Mario Balotelli, che lei prima citava come un simbolo dei ragazzi di colore, un simbolo positivo? Io dico positivo, alcuni dicono un atteggiamento un po' arrogante, particolare, potrebbe essere una cosa legata all'età, alla sua situazione nel passato. Oggi è un riferimento, è partito dal nulla, non è stato conosciuto col suo lavoro, perché creduto al calcio ha avuto un successo, e questo è un esempio che secondo me deve essere anche valutato proprio positivamente. Torniamo al suo lavoro di scrittore. Ho letto che lei ama la lingua italiana, Dante, Leopardi, Ungaretti, che le parole le vengono in italiano, quindi lei pensa in italiano, non la sua lingua d'origine? No, penso in italiano. Oggi è più facile per me partorire i miei versi in lingua italiana che in lingua francese, in Wolof. Innanzitutto non sono nemmeno in grado di scrivere in Wolof, che è la mia lingua proprio. Le è mai capitato di essere oggetto di qualche pregiudizio? Questo sì, ne ho anche scritto. Ma un episodio che posso raccontarvi, esempio la metropolitana milanese, che ogni volta che basta salire ti siedi, ci sono tre posti liberi, ma la gente non ti vuole avvicinare perché effettivamente sei un nero. O entri in una libreria che sappiamo ed è importante, uno ti dà del tu, e mentre vedi, io ho 42 anni, vedi un ragazzino o una ragazzina di 23, anche meno di 23, che viene data del lei. E questo sì, perché il nero nella storia anche del mondo non è stato mai considerato come uno che abbia contribuito allo sviluppo della civiltà contemporanea, è stato sempre visto come uno da aiutare, che non capisce e tutto, e questo è un problema reale. Le faccio sentire un passo del film da cui noi prendiamo spunto per la trasmissione. Tu hai 30 anni più di quelli che ho io, papà. Tu e la tua sciocca generazione credete che così come è stato per voi dovrà essere sempre. E finché tutta la vostra generazione non sarà sottoterra, non riusciremo a levarci dal groppone il vostro peso morto. Insomma, ti devi togliere dal mio groppone. Papà. Tu sei mio padre. Io sono tuo figlio. Ti voglio bene. Te ne ho sempre voluto e te ne vorrò sempre. Ma tu ti consideri ancora un uomo di colore, mentre io mi considero un uomo. E questo era il protagonista del film, il ragazzo di colore, che dice al padre: tu ti consideri un uomo di colore, io semplicemente un uomo. E lei invece nel suo libro rivendica proprio la pelle nera. Rivendico la pelle nera, nello stesso tempo dico a tutti di non chiamarmi ragazzo di colore, perché io sono un ragazzo e basta, ho un nome, un cognome, la mia identità e la mia civiltà. Orgogliosissimo di essere nero, perché questa è la mia identità e la mia personalità. Quindi rivendico effettivamente l'esistenza della mia cultura, della mia civiltà. Approfitto per dire un'altra cosa: io faccio parte dei poeti della negritudine, che è un movimento letterario nato in Francia prima della Seconda Guerra Mondiale, che è stata proprio come movimento coniato da MSSR, e dove c'era Léopold Sédar Senghor, il primo presidente della Repubblica del Senegal, c'era anche Léon Gontran Damas e Alun Diop. E questi hanno difeso la dignità della diaspora, non solo africana, ma della diaspora nera, quindi qualsiasi nero ovunque sparso nel mondo, che ha una dignità, una civiltà. Sempre più ci sono degli scrittori migranti, molti dall'Africa, tra l'altro, ho notato. Sì, noi, soprattutto noi senegalesi, perché questo tutti lo sanno, avendo un presidente, avendo avuto un presidente della Repubblica, poeta, scrittore, ideologo, vate della negritudine, uno conosciuto, i senegalesi, tutti lo sanno, hanno questa vena artistica. La situazione che viene proposta dal film da cui noi prendiamo spunto, quello appunto di una coppia mista, di una ragazza bianca che presenta ai genitori un ragazzo di colore, lei l'avrà vissuta con sua moglie, immagino? No, fortunatamente no. Io ho sposato una donna che il padre è pugliese e la mia madre è bergamasca. E 30 anni fa non era facile vedere in Italia una coppia del genere, perché il padre ha lasciato la Puglia alla ricerca di una posizione migliore, ha incontrato l'amore, una bergamasca, anzi una bergamasca del Val Brembana, che ha sposato. Quindi loro già come esperienza personale sicuramente hanno vissuto anche loro, avuto delle difficoltà. Con me è stato molto più semplice, perché sapendo cosa voleva dire coppia di territori diversi e tutto, e quindi era molto più semplice e molto più facile. Poi nelle coppie miste c'è sempre questo problema del grado di studio, perché se mi sposi uno o una che comunque ha un certo livello di studio, cambia. Io ho avuto fortuna di sposare una donna laureata che lavora nella psichiatria, che capisce, ha una mente locale, e quindi alcune questioni riesco a risolverle facilmente. Il padre è sindacalista e quindi io sono a posto, ma so che quella fortuna che ho avuto non sono tutti che sono aperti mentalmente. Benissimo, allora prima di lasciarla riepiloghiamo le ricette di oggi nelle nostre schede. Cebujen. Il Cebujen è uno dei piatti nazionali della cucina senegalese a base di riso, pesce e verdure. Oltre alla variante di pesce che vi proponiamo, è possibile utilizzare anche la carne per preparare questo piatto. In Senegal questa pietanza viene consumata normalmente in ciotole, non in piatti, e si mangia con le mani. Colui che lo prepara, infatti, deve adagiare il riso sul fondo di ogni ciotola e sopra mettere le verdure e il pesce. A quel punto ogni commensale può, con le mani, appallottolare i tre ingredienti e mangiare tutto insieme. Ingredienti: 500 g di riso, meglio se frumentato, 750 g di orata o branzino, due patate, una cipolla, un limone, un bicchiere d'olio, una latta di passata di pomodoro, due spicchi d'aglio tritati, sale e prezzemolo a piacere, un peperoncino piccante secco, melanzane, cavolo e carote a piacere. Preparazione: fare un trito d'aglio, aggiungere un pizzico di prezzemolo, sale, pepe e peperoncino piccante secco. Con questo composto riempire la pancia della vostra orata che avrete precedentemente aperto e pulito. A parte, scaldare l'olio nella padella con la cipolla tagliata grossolanamente. Una volta dorata la cipolla, aggiungere la scatola di pelati, diluita con un bicchiere d'acqua, e il pesce intero, e cucinare per 5 minuti. Versare poi nel tegame altre 6 o 7 tazze d'acqua e le verdure tagliate grossolanamente e cuocere per altri 60 minuti. Una volta che la verdura è cotta, prelevarla dalla padella insieme al pesce e a qualche cucchiaio di salsa di pomodoro. Usare il restante sugo per cuocere il riso come un risotto. Servire il riso con al centro il pesce e le verdure. Yassa. Ingredienti per 4 persone. Un pollo lavato e tagliato. un chilogrammo di cipolle dorate, un mazzetto di prezzemolo, un dado di carne, 100 g di senape, uno spicchio d'aglio, il succo di due limoni grandi, olio d'oliva quanto basta, 20 g di olive verdi, sale e pepe. Procedimento: tritare il prezzemolo e l'aglio, metterli in un contenitore, aggiungere il pepe macinato e condire i pezzi di pollo con la metà del composto, aggiungendo un cucchiaio da minestra di olio. Lasciare riposare e nel frattempo tagliare le cipolle a pezzi sottili per la loro lunghezza. Deporre le cipolle in un altro contenitore con l'altra metà del composto, aggiungere il succo di limone, sale e unire tutto con il pollo. Lasciare riposare per 4 ore. Poi passare i pezzi di pollo alla griglia o al forno preriscaldato a 200 gradi, facendoli dorare da tutte le parti. Mentre i pezzi di pollo sono in cottura, in una pentola dal fondo largo scaldare 4 cucchiai d'olio, con le cipolle precedentemente affettate, e fare imbiondire per 15 minuti. Aggiungere poi la senape, il dado e cuocere per 30 minuti a fuoco lento. Aggiungere il pollo appena tolto dal forno insieme alle olive. Mescolare con un cucchiaio di legno e lasciar cuocere per altri 15 minuti. Il pollo può anche essere fritto. Servire con riso bianco o pane. La puntata termina qui, io ringrazio il nostro ospite, Sheikh Tidiane Gaye, in libreria in questi giorni col suo nuovo libro. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille, alla prossima. Grazie in regia Pietro Lacorte, mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate che i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.